M'accorsi una mattina delle viole, viola a me, venne incontro con ditate d'anelli e dei dolori dentro la testa che tanto si legavano ai miei dolori che n'ebbi sino in fondo penuria. Ho fretta, frettolosa ad andarmene, cercando la sua testa di piume gialle, di per certo sparita, con quella voce che tremolava. Viola, vedi poi venirmi accanto entro giorni d'una giacitura speciale, giorni di stoppa e neve e pietrisco allegante, alberese scheggiato e molto cigolante basilisco, giotteschi giorni aguzzi, pei denti rossi dello scoiattolo il quale ti coglieva a motivo delle foglie rotonde ed io per l'erba che ne veniva con odore, allevando nelle gengive il sapore che sai che ne mangi una sera mentre scrivi e balzellante vivi.